Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio ad Andrea Ferro e chiaramente auguri, visto che questa è la puntata in onda tra Natale e Capodanno, a lunedì a Radio 24, a quest'ora notizie, aggiornamenti, commenti dal mondo dei trasporti e della logistica. Oggi iniziamo con questa voce. Io sono un autista di un'azienda di Cesena e sono qui nel Regno Unito bloccato in attesa di notizie, in attesa di qualcuno che si faccia vivo per dirci cosa dobbiamo fare e quando ce ne potremo andare. Qua è tutto bloccato. Sono giorni ormai che siamo qua. Quella che avete appena ascoltato è la voce di un autotrasportatore bloccato nei pressi di Dover. La temporanea chiusura del confine da parte della Francia in seguito alle notizie sulla variante del virus del Covid ha intrappolato per giorni migliaia di tir di tutta Europa. Il confine con l'imbarco dei mezzi sui traghetti o sui treni che percorrono l'Eurotunnel è stato successivamente riaperto, ma ci vuole ancora tempo per smaltire il blocco e prima di rimettersi in viaggio, infatti, gli autotrasportatori devono sottoporsi al tampone. Ne parliamo con Alessandro Peron, neo segretario generale di FIAP, che in questi giorni è rimasto in contatto con alcuni autotrasportatori italiani bloccati in Gran Bretagna. Buongiorno Peron e chiaramente auguri. Auguri a tutti e buongiorno a tutti. Allora, com'è la situazione e gli ultimi aggiornamenti dalla Gran Bretagna? Ma allora, innanzitutto vorrei dire che la situazione è assolutamente inaccettabile. Penso che tutti noi abbiamo passato un Natale con i nostri cari e quando si parla di rispetto del trasporto che noi stiamo da quest'anno lo stiamo proclamando a tutti gli effetti, vuol dire che non è necessario solo un video o una pacca sulla spalla, ma bisogna assolutamente in tutte le azioni essere consci che ci sono persone che ci permettono di rimanere a casa in sicurezza perché la merce arriva. Oggi a Dover, ma non solo a Dover, anche a Folkestone, per cui in tutto il confine tra la Gran Bretagna e la Francia stiamo vivendo una situazione ancora abbastanza critica, perché la Francia ha bloccato quello che sono i confini, poi dopo li ha sbloccati solo previo test e naturalmente si è formato una colonna che parliamo di oltre 60 chilometri di mezzi di trasporto, di camion, stiamo parlando di quasi 10.000 mezzi fermi che stanno adesso defluendo, ma ci vorrà ancora una settimana, per cui noi abbiamo molti italiani che non hanno potuto godersi insomma e aprire i regali con i propri figli, ma sono fermi in un aeroporto, quello di Manston, che stanno aspettando per fare i test. Vorrei sottolineare che in realtà anche dopo lo sblocco della Francia anche avevamo un problema anche in Italia, perché c'era il decreto del Ministro della Salute Speranza che bloccava l'ingresso, è stato modificato anche quello e finalmente possono rientrare. Io spero che ci sia un'attenzione anche su tutte le deroghe per permettere a questi poveri lavoratori che lo stanno facendo per noi, vorrei ricordare che stanno portando merce perché noi possiamo rimanere tranquilli a casa, che possano rientrare nel più breve tempo possibile. E sempre in questi giorni, questione vaccino a parte, la notizia è l'accordo sulla Brexit raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea. Peron, cosa significa questa intesa per quanto riguarda il trasporto delle merci? Ma allora, in base a questo accordo si è comunque tenuto conto di dare una libera circolazione alla merci. Questo però non vuol dire che naturalmente si dovranno fare tutte quelle pratiche doganali che sono dovute, per cui ci sarà un rallentamento di tutte quelle che sono i trasporti e le esportazioni e le importazioni. Anche qui il Covid ci ha insegnato che è importante dare la giusta attenzione a questo settore. Ci deve essere una libera circolazione delle merci e dobbiamo permetterla nel più breve tempo possibile. Per cui ci sono oggi strumenti come per esempio il CMR elettronico, che spero che l'Italia si adotti più velocemente possibile, che possono aiutare, ma non solo. Ecco, però spieghiamo agli ascoltatori di che cosa si tratta. Il CMR elettronico, certo, è uno strumento che permetterebbe, è un documento che di solito il trasportatore deve portare a bordo per esportare la merce in un altro paese dell'Unione Europea. Averlo in formato elettronico permetterebbe di evitare documenti cartacei, ma anche di velocizzare tutte le pratiche di controllo dagli organi dei vari organi che devono controllare. E questo faciliterebbe e tra virgolette, velocizzerebbe quello che sono le attività. In un'era in cui si parla di digitalizzazione, beh, cominciamo ad avere un po' di rispetto per quei, ribadisco e risottolineo, quelle povere persone che sono da sole in un camion e devono aspettare ore Alessandro Peron, neo segretario generale di FIAP, grazie, buona giornata e chiaramente auguri. e ore. Grazie e auguri a tutti quanti i radioascoltatori. E a proposito degli effetti per l'autotrasporto dell'accordo sulla Brexit, abbiamo sentito anche il segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, Sergio Lomonte. L'accordo è sicuramente una cosa molto positiva, finalmente si evita una sciagura, quale sarebbe stata appunto un no deal, e così verrà garantita la connettività stradale che per noi è fondamentale, che è stata studiata dai negoziatori soprattutto con il rispetto dei regolamenti comunitari, quindi della sicurezza stradale, di tutto ciò che attiene all'accesso al mercato, l'accesso alla professione, che quindi dovrebbe garantire una leale concorrenza tra gli operatori. Questo è quello che tenevamo come operatori del settore, come rappresentanze, a raggiungere, proprio perché non volevamo che il paese terzo, adesso che diventerà il Regno Unito, potesse essere un nuovo paese che portasse concorrenza sleale per i vettori nazionali. E ora parliamo di strade. Nei giorni scorsi è stata completata la superstrada Terni-Rieti, che accorcia notevolmente i tempi di percorrenza tra i due capoluoghi di provincia e quindi tra le due regioni, Lazio e l'Umbria. L'ultimo tratto, percorribile dall'antivigilia di Natale, lungo circa 3 chilometri, ed è compreso tra le gallerie Montelungo e Valnerina. L'opera, che comprende anche un viadotto di 500 metri, è costata oltre 20 milioni di euro. La superstrada è gestita da ANAS. All'inaugurazione era presente anche la ministra Paola De Micheli, che ha fatto il punto sul piano di rilancio infrastrutturale del paese. La ascoltiamo. Quest'opera fa parte di un progetto che noi abbiamo per questo paese, che è quello del rafforzamento della rete stradale, che è fatta di tante parti. Una parte importante ce l'abbiamo nel nostro piano Italia Veloce, che abbiamo portato in Parlamento, che sarà la base con la quale verranno finanziate le opere infrastrutturali in Italia dei Recovery Fund. Ma siccome i Recovery Fund non finanzieranno le strade, o comunque pochissime strade, perché le misure stradali non sono eleggibili per il recovery, io vorrei che fosse chiaro a tutti una cosa: che se anche un'opera non è finanziata con i recovery, non vuol dire che è di serie B, perché comunque noi la finanziamo con altre fonti di finanziamento, non è di serie B. Il piano di rammendo che abbiamo per il paese, soprattutto sul fronte stradale, che è appunto quello di completare le direttrici che sono incomplete, di allargare sedimi stradali laddove c'è bisogno, di rafforzare le comunità locali per consentire loro di avere un rafforzamento delle politiche del lavoro, delle politiche industriali, delle politiche di sviluppo. Questi interventi, che a volte sono piccoli come cifre e come chilometri, e che a volte sono un pochettino più grandi, non sono di serie B perché non saranno nei recovery, sono sempre di serie A. Stanno dentro al piano e alla visione di connettività che abbiamo del paese e verranno finanziati con altri fondi. E a proposito del piano infrastrutturale, della manutenzione della rete di cui parlava la ministra De Micheli, ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due bandi per un valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro. In particolare, un bando del valore di 640 milioni si riferisce ad interventi per il risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie, l'altro di 880 milioni riguarda invece l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata lungo la sede stradale. Sempre a proposito di infrastrutture, ricorderete l'8 aprile scorso, in pieno lockdown ad Albiano, il confine tra Liguria e Toscana, il crollo del ponte sul Magra, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Nei giorni scorsi è stato presentato il piano per la ricostruzione. I lavori dovrebbero iniziare a marzo e dureranno circa un anno. Il nuovo ponte sarà a quattro campate e costerà poco meno di 24 milioni. Oggi l'aggiornamento del mercato dei veicoli riguarda il settore dei rimorchiati. A novembre le immatricolazioni sono aumentate del 23,8% rispetto al novembre 2019. Questa stima porta il dato consolidato dei primi 11 mesi a meno 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 10.345 unità immatricolate contro 13.347. Il dato è stato diffuso da Unrae. E ora andiamo a Civitavecchia, siamo in linea con Patrizio Lofarelli di Assotir, buongiorno, ben trovato. Un caro saluto a tutti. Allora, parliamo del porto di Civitavecchia perché nei giorni scorsi con l'autorità di sistema portuale avete aperto un tavolo permanente, un tavolo a favore della legalità. Perché? Perché riteniamo che il nostro settore, anche in crisi da molto molto tempo, è soggetto comunque a delle irregolarità che potrebbero venire fuori da un mercato che possiamo definire tranquillamente distorto. Quindi il costo della legalità è per noi un valore importantissimo e attivare un monitoraggio di questo settore serve comunque a tutelare le imprese che virtuose e che seguono le regole. Però per sostenere i costi serve un mercato che riesca comunque a dare la possibilità alle imprese di autotrasporto di essere in regola. Molto spesso purtroppo capita in un mercato, come dicevo prima, molto distorto, dove la politica del ribasso ormai ha preso via, di non raggiungere appunto il costo, i famosi costi minimi per la regolarità, e purtroppo l'autotrasportatore, anche non volendo, si ritrova a non essere in regola con tutto quanto quello che serve. Ma questo incide anche e soprattutto sulla sicurezza, che va proprio a 360 gradi. L'automezzo che percorre comunque tantissimi chilometri su strada è sulle autostrade, è sulle strade principali e comunque deve essere efficiente, deve essere comunque, ci deve essere comunque una manutenzione importante e deve essere sicuro. E tutto questo si fa attraverso comunque un percorso che va dal punto di vista, tra virgolette, commerciale, che assicuri il sostentamento alle imprese e che dia la possibilità di sostenere i costi, e i costi sono anche legati poi al costo del lavoro, al costo appunto delle tasse e al costo di tutti quanti i controlli regolari che devono essere fatti, vedi revisioni, vedi le giuste assicurazioni. Per sicurezza sul lavoro si intendono anche rapporti di lavoro regolari, un modo per contrastare forme di sfruttamento più o meno occulte, Lofarelli. Sì, si intende gente potenzialmente sfruttata o contributi magari non versati. Ma tutto questo, ripeto, è una conseguenza di un problema. La causa la troviamo a monte. La troviamo a monte laddove il trasportatore, e come dice anche il Ministero stesso, ha dei costi incomprimibili e questi non possono essere comunque abbassati in virtù di un mercato che ha delle pretese. L'efficienza dell'autotrasporto, e questo deve essere un messaggio importante, non deve essere in contrapposizione con legalità e sicurezza. Tutt'altro, la legalità e la sicurezza aiutano ad avere un sistema efficiente e degno di un paese civile, e la risultante è quindi un mercato corretto e calibrato per quanto riguarda l'autotrasporto. Patrizio Lofarelli, responsabile alla portualità di Assotir, grazie e chiaramente auguri anche a lei. Grazie anche a voi. Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, è il nuovo amministratore unico di RAM, logistica, infrastrutture e trasporti, società in house del MIT. Succede al professor Ennio Cascetta. E sempre in tema di nomine, Luciano Guerrieri è il nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, che comprende i porti di Livorno e di Piombino. Torniamo sulle strade con l'ultima notizia di oggi. Dal 1 gennaio, quindi da venerdì, scattano le nuove tariffe per il transito nei trafori del Monte Bianco e del Frejus. Il rincaro è dello 0,63% per tutte le classi di veicoli. E a Capodanno noi ci risentiamo alle 9.05 circa per uno speciale di hashtag autotrasporti dedicato all'anno che è stato e all'anno che verrà, con le testimonianze di alcuni imprenditori del settore. Vi ricordo il giorno dopo, sabato alle 13.15, l'appuntamento consueto con Container, il programma condotto da Massimo De Donato. Con hashtag autotrasporti noi ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buon anno. Hashtag autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.